Ma sempre vai a rovini tutto. Lo so. Chiedo asilo. Allora, stasera a costo di diventare nervoso e costo di stare bene. A costo di diventare ripetitivo, stasera c'è Santoro, E come ti ho detto, non riesco più a guardarlo. Ma allora, appunto, aspetta, domani guarda Paragone, no? Giusto, ci sono giusto. I suoi editoriali cantati, guarda, sono meglio di quelli di Pongo. Ti ricordi quelli? Pongo, ma cosa no? dici? Era Pongo. Con Funari, no? Ma no, ma come fai a ricordarti? Ma sono 30 anni fa, i nostri bambini all'ascolto non sanno chi è Pongo. Ma come? Pongo, dai, drago, guarda, Pongo. Ho cercato su YouTube, non esiste nessuna testimonianza delle un tempo famose notizie cantate di Pongo. E comunque è vero, Gianluigi Paragone ha preso l'idea del suo show da Pongo. Pongo non ci avevo pensato, Pongo. E poi tra l'altro ho letto che Santoro mica sta andando tanto bene. Ma secondo me è proprio il talk show politico che ha dato il meglio nel 2009-2010 e poi è andato peggiorando, quindi... Per forza, adesso se inviti la Russa come ospite, allora il partito glielo vieta per paura di perdere voti. Lui un po' secondo me ha il sentore che se... va poi dopo non fa una bella fine, ma per cui... ma quindi ci sono delle cose, certo, ste cose. Certe persone sono passate da icone buone per tutte le stagioni, tipo la Russa, adesso sono diventati icone negative, capito? Appena appaiono in TV si perdono i lettori. Cicchito, sì. Gasparri, Alemanno, Scaiola, Verdini, per carità, capito? Povero bambino Alfano, ogni volta che dalla TV gli chiedono un uomo e lui deve cercare, non so, tra le quarte, le quinte file, facce mai viste, che non va bene neanche da Lerner, cioè, infatti, capito? Quindi è il contrario di quello che era stato fino adesso. Meno l'ospite è un'icona, meglio è. Sembrerebbe di sì. Allora c'è speranza anche per il tipo di ospite che vorremmo noi. Tipo, se uno si azzarda a dire: signore e signori, ecco a voi Andy Partridge. No, che niente. Andy Partridge. Cos'è? Tipo il prezzo giusto. Sì, però no, nessuno, nemmeno no, adesso. Ma perché Andy Partridge non va mai bene per la TV. Ah, mai? Sì, a parte che non si muove di casa. Sta lì con la vestaglia, le pantofole, gioca con i soldatini. E poi è talmente sconosciuto che neanche, guarda, ma da Gadlerner, neanche facessero tipo uno spin-off pomeridiano di Gadlerner, dove ti puoi immaginare che tipo di ospite, neanche lì Andy Partridge. Ma allora ci vogliono ospiti sconosciuti, però non Andy Partridge. No, ci vogliono ospiti sconosciuti, ma che abbiano un'etichetta politica ben visibile. Ah, ho capito. A parte che Andy Partridge, per chi non lo sapesse, è un musicista inglese. Sì, noi diamo per scontato. Quindi però, con la politica non c'entra niente. Però... Ma se nel frattempo fosse diventato, che ne so, un sostenitore del PDL, di Parti, sì, okay. Ecco che potrebbe benissimo essere invitato da Santoro o da Floris o da Lerner o da Paragoni. Ah beh, con Paragone potrebbe fare un duetto, no? Partridge e Paragone che cantano una canzone degli XTC. Potrei anche morire tranquillo se vedessi una cosa così, potrei morire. Che magari succede, sai che le previsioni si autoavverano. Qualcuno dice che anche D'Alema ogni volta che va in TV fa perdere i voti al suo partito perché è antipatico, no? Quindi prima della sua apparizione uno dice: ma magari voto PD stasera, poi domani, quest'anno, e poi vede D'Alema e gli scappa la voglia. Come mai? Ma guarda che dipende, perché secondo me perde elettori D'Alema, però anche ne guadagna. E quali, scusa? Qualche sbandato, no? Vede i baffetti, sente parlare. Pensa agli altri baffetti e decidi di votare, cioè, perché i baffetti. Ma come? Se dice qualche sbandato neonazista, voto D'Alema. Per via dei baffetti, drago, mica per altro, no? Anche un po' anche per. Vabbè, ma allora Berlusconi, che ormai è il socio di Mao Zedong, spinge i maoisti a votare per lui, non ho capito. Ci fossero i maoisti in Italia, dove sono finiti? Ci sono, diciamo, dei nostalgici degli anni 70 che davanti alla reincarnazione di Mao con cravatta marinella non resistono, gli danno il voto. Insomma, il mondo è strano, la gente anche, potrebbe succedere. Vabbè, ma cosa vuol dire? Anche Leulu Corlando ha il voto di tutti i sorcini. Ma chi? Ma perché cosa? Assomiglia a Renato Zero. Ma no, no, dai. E allora la gente dunque, funziona Bersani... così ormai. Invece Bersani purtroppo assomiglia solo a Gargamella. Ah, quindi i voti dei puffi. No, sì, non è che possa prendere o perdere voti per il suo aspetto fisico. Renzi invece è uguale a Pupo da giovane, magari becca lo zoccolo duro dei fan di Pupo. È gente vero. Toscana, gente, gente... Certo. Sì. Eh sì. Eh sì. proprio la creme della creme dell'elettorato, no? I fan di Pupo. Vabbè, uno prende quello ma che è meglio quelli di Gargamella o vabbè, Garganella. Tra Mao, Garganella, Gargamella e Pupo, veramente la scelta è durissima. E Vendola? Beh, lui è un po' Ottavia Piccolo, roba di nicchia. Di? Nicchia. Ah. Tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancor più vecchio, che sei ancor più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Tempo se ne va, il tempo se ne va. Il giorno presto finirà, ma adesso è ancor più presto, adesso è ancor più presto, adesso è ancor più presto. Il giorno presto finirà, ma adesso è ancor più presto finirà. Le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose e allora diamo il diritto di asilo. Vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancor più vecchio, che sei ancor più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Chiedo asilo! E ora bambini, tutti a casa! Ho letto un'intervista a Marchionne. Ma di nuovo? Sì, aspetta, no, volevo dire che l'ho trovato sempre interessante e non così cattivo come lo dipingono. È solo un tipo poco diplomatico, un po' impacciato con le buone maniere. Però sempre meglio di quelli che hanno le buone maniere, poi sono solo degli imbroglioni. Guarda, per me è così. Vabbè, adesso che hai detto la tua su Marchionne, siamo tutti più consapevoli. Grazie. No, grazie io lo vorrei un po' qui all'asilo, sai? Secondo me metterebbe a posto tutte le cose che non vanno, troverebbe il modo di svecchiare un po' l'ambiente. Sì, sì, qui, sì. Insomma, licenzierebbe metà del personale e farebbe lavorare il doppio quelli che restano a parità di stipendio. Beh, fa guarda, così. Questo suona familiare ovunque, non solo in ambienti Fiat. Quasi tutti guadagnano meno di quello che guadagnavano 10 anni fa. Siamo in recessione, capa. Recessione, capito? Vabbè, ma chi se ne frega? Qui siamo all'asilo, non ne approfittiamo mai, drago. Ci sono i giochi, occasioni di svago. Vabbè, tutto messo a disposizione. E tu sei qui che devi parlare di Santoro, Marchionne, Gad Lerner, di Renzi. Che palle. Vabbè, ma capa, cioè, io non adulti. Ne posso più di queste cose da adulti. Lo siamo. Facciamo qualcosa di davvero, ma per davvero asilesco, sì. Infantile, puerile. Vabbè, drago. Guarda, puerile. Mi sembra che già facciamo abbastanza. Dobbiamo fare di più. No, ma poi la gente non riconosce più il canale. Cercano news and talk e sentono due deficienti. Ma queste sono cose del XX secolo. Adesso la radio l'ascoltano tutti via web. Non è che cerchi la frequenza con la manopola. No. In macchina hanno tutti il tasto 4 dedicato a Radio 24. Giusto, sì, sì. E non ci si sbaglia, il 4 è Radio 24. Io ce l'ho anche sull'1, sul 2, sul 3. Bravo. Sul 5 invece non ce l'ho. E anche se senti due deficienti sul 4, lo sai che è su Radio 24, perché è il 4 che determina. Quindi capito? Noi possiamo benissimo quindi degenerare nella glossolalia senza problemi. Tito, c'era glossolalia cosa? Allora, secondo l'enciclopedia Treccani, la glossolalia è espressione verbale di suoni più o meno linguistici incomprensibili. Come fenomeno anormale indica i deliri verbali di alcuni malati di mente. Quindi la glossolalia è fare i versi in pratica, capito? Ma perché noi facciamo i versi? Ma... Tito, Tito, sono versi, no? Questa è glossolalia, un esempio di glossolalia. Invece questo è una pallina da ping pong. Mancano 106 giorni alla fine del mondo.